por mí. Yo le pedí grunita y la loro pasa. En la estrada y loro credo. Contra el paso y la loro rabia. Sobra en un ignoro nome. Taiso por ti, taiso por ti, taiso por ti. Yo le pedí. Taiso por ti, taiso por ti, taiso por ti. Yo le pedí. Taiso por ti, yo le pedí. Taiso por ti, yo le pedí. Taiso por ti, yo le pedí. Taiso por ti, yo le pedí. Porti fiorentini, cine pac sono arrivati, dietro porti fiorentini, cine pac non sono arresi, dasso porti, dasso porti, dasso porti, fiorentini. Buongiorno a tutti e tutte. Ore 13.30, Radio Wombat e quindi passaggio a nord-ovest. I fatti che accadono nella periferia nord-ovest di Firenze, narrati da chi nei quartieri ci vive e ci lavora. È tutto lunedì dalle 13.30 in diretta, con repliche dal martedì al venerdì, sempre alle 13.30. Proponiamo oggi la seconda parte dell'intervista a più voci agli operai Seves. È un'intervista realizzata un po' di tempo fa, ma che riproponiamo proprio perché, come già spiegato nella prima puntata, riteniamo importante sentire il punto di vista degli operai, non solo in un'ottica di memoria, ma anche come strumento per attuali e future iniziative. Però il discorso vostro non era questo. Ci sono certi che lasciati già una destinazione ben precisa, una ditta, diciamo, che lascia una proprietà che se non è un progetto approvato, però lascia diciamo, un progetto bello e pronto, che sono tot metri quadri. Cioè la Seves ha altri tot metri quadri messi insieme, sono 25. Comunque qual è il nostro vecchio 50 il nostro vecchio amministratore delegato aveva già ottenuto una mezza parola sulla variazione di destinazione d'uso d'area. Siccome questa area così grandissima, la ci avrà un impatto grosso, per non dire devastante, rispetto a un quartiere che ancora, eccola là, rispetto a un quartiere che ancora mantiene, rispetto ad altri quartieri fiorentini, altre zone fiorentine, un tessuto sociale, anche urbanistico, abbastanza compatto, che ancora comunque fortunatamente non è stato possibile disastrare. Quindi, il che succede? No, allora, secondo me per ora nell'immediato non succede niente, perché intanto lì sono rimasti i magazzini, quindi la fabbrica ancora non è dismessa del tutto. I magazzini c'è ancora la sì, c'è roba che arriva dalla Repubblica Ceca pure, quindi che diciamo una parte dell'area dei magazzini logistica e c'è, quindi finché c'è la logistica lì sbagliamo a capanno un allo smanoro ci metti poco quindi sì, appunto dico, però oggi c'è, perché gli uffici di fatto sono stati spostati a Sesto, però la parte diciamo dei magazzini della logistica è ancora lì. Bene, quindi finché ci sarà la logistica non è un problema, diciamo, nemmeno. Poi tu mi insegni che al momento in cui si sposterà anche la logistica, prima che questa diventi area diciamo a uso residenziale, e ce ne correrà, perché voglio dire, prima di tutto io penso che sì, perché io se arriva anche uno gli metto un progetto va bene, sì quello sì, no. Ma secondo me, io ti dico, cioè per come si è sviluppato la cosa su tutte le fabbriche che erano in un tessuto urbano a Firenze, hanno fatto tutte chiudere, tutte all'infuori, se non ci hanno fatto case ci hanno fatto supermercati, più di là non siamo centro commerciato. Non è un problema di guadagno immediato, lei solo e soltanto per il cambiamento di destinazione e l'uso dell'area c'è un aumento del valore dell'area talmente elevato che tu la puoi tenere anche dopo altri 10 anni in quella maniera. Sì, però ma chi è che la può tenere? Tu puoi mettere a bilancio un valore dell'area che è una finanziaria, non certo un privato. No, la finanziaria che c'ha le spalle coperte. La finanziaria c'ha le spalle coperte e comunque fa determinati tipi di promesse. Anche chi può questo, può quest'altro. Come diceva lui, però la bonifica stessa. C'è l'area lì, per bonificare tutta quell'area ce ne vuole di qualche decina di migliaia di milioni. La bonifica dell'area, per come si è sperimentato voi, anche le stesse bonifiche sull'area, non è che partono così le partono nel momento in cui c'è un cambiamento di destinazione, per cui la bonifica stessa dell'area è un investimento, diciamo, che comunque merita. Ma di sicuro, sicuramente. E quindi il discorso nostro era. Però sai, noi come facciamo a sapere? La situazione di qui, cioè, sa provare a dire qualcosa come quartiere, abitanti e via dicendo, oppure l'è completamente perso la cosa, capito? Questo l'è. Ma senti, io no, l'unica cosa che io farei, cioè scusami, ma l'unica cosa che io farei, se volete uscire con un vostro cosa, è dire l'attenzione popolare da parte del quartiere, da parte nostra, da parte di tutti sulla fabbrica, la permetterebbe anche comunque di riproporre o di tenere, diciamo, viva la fiamma, tutta la situazione, no, anche precedente, sicuro, capito? Perché lui dice, ha fatto questo, e poi tu farà, c'hai ragione. Ma tutto quello, ma che il problema è che è così che funziona, purtroppo, hai fatto quello, hai fatto quest'altro, e poi ci metti anche il carico da 90 sopra, e lo fanno. E quello che mi dà più sui nervi di tutto è che alla fine hanno fatto tutto alla luce del sole, ce l'hanno sempre detto, e l'idea lì si doveva chiudere. E qui cazzo di Baumgartner, quando si è presentato il gruppo 7, la prima cosa che ha detto: Firenze va chiusa. Ma l'ha detto quanti anni fa? Firenze l'è stata chiusa, l'è stata chiusa. A me questo mi sta a suo coglione di tutto quanto, che alla fine non hanno mai nascosto nulla, loro hanno sempre detto qui si chiude baracche e burattini, e non lo sapevamo solo io e te, lo sapevano le istituzioni, lo sapeva il sindacato, lo sapevano i poteri forti, lo sapevano tutti quanti. E non hanno potuto fare un cazzaccio di nulla, scusate i termini. No, ho cominciato a valvolarmi un po'. Ma forse l'avete già detto, ma prima del 2008, cioè la situazione all'inizio di questa crisi, di questa fase, di questa fase di, era di riduzione delle commesse, di c'è stata, diciamo, praticamente, come gli dicevo a loro, noi, la crisi comincia per noi nel 2008 praticamente, di fatto, perché con la crisi, diciamo, a livello generale, globale, va in crisi il reparto, diciamo, edilizio, no? Comparto edilizio, giustamente noi si lavorava per l'edilizia, ecco, questo ci ha comportato una prima crisi, però... In termini di riduzione di commesse? Commissione, sì, certo, normale. Se prima ne vendevi 7 milioni, ti riduci a 4 milioni, è normale che ti... Okay. Ecco, però noi continuavamo a produrre da sempre 7 milioni, perché appunto, come dicevo, c'avevamo questo amministratore delegato che aveva rilevato delle aziende a debito, cioè facendo prestiti con le banche, giusto? Pensando di queste, però queste qui l'aveva fatto lui prima del 2008, l'aveva fatto nel 2005-2006, avevamo comprato due grossi gruppi, e quindi cosa è successo? Che la crisi gli ha permesso di non poter far fronte a questi debiti, no? Quindi andiamo in crisi, ecco perché c'è il debito di 500 milioni di euro che non poteva far fronte. A quel punto inizia tutto il nostro calvario. Cioè, diciamo che senza questi acquisti e avreste potuto, sarebbe potuto gestire la riduzione, allora, delle commesse. Sì, io penso una cosa, che noi, secondo me, le potenzialità, se lo dobbiamo, cioè, secondo me, io immagino, no, anche spiegarlo alla gente. Sì. C'è la crisi. La crisi sì, c'è stata effettivamente, però secondo me con se veniva gestita in una maniera un pochino diversa di come è già stata gestita, cioè nel senso, anziché continuare a produrre, che ne so, facciamo un mese, due mesi di cassa integrazione l'anno a girare e conteniamo, diciamo, la produttività di quest'anno, no? Per vedere se poi riusciamo a recuperare mercato, oppure un'altra forma poteva essere, come era stato fatto, era stato, diciamo così, deciso, di diversificare la produzione, cioè anziché fare solo mattoni in vetro, visto che noi per dire due mesi abbiamo le macchine che non lavorano, anziché fare mattoni, che ne so, vendiamo, ci facciamo bicchieri di vetro. Sì, la crisi, cioè il calo effettivo della domanda, e quindi per cui delle minori commesse c'è, ma... Cioè è stato ben preparato il terreno prima per arrivare a quel calo lì, e poi rincarata la dose per utilizzarlo, moltiplicato. Però non ci mettere sui soldi per la Ginori. Noi avevamo un calo, è ovvio, l'edilizia è stata massacrata, noi lavoravamo con l'edilizia, la diversificazione andava affrontata in un'altra maniera, dovevamo spingere ancora di più su pezzi speciali, perché è vero che la crisi c'è, però quelli ho sordi e ci sono sempre stessi. Ma sarà stata una scelta. Ma certo è stata una scelta, ma ci mancherebbe cioè, altro. Nel momento in cui è rilevata dalla finanziaria. La finanziaria ha pianificato il tutto, riduco costi, riduco danni, comprimo il mercato, vendo il mercato del vetromattone, che loro non hanno venduto la Repubblica Ceca, loro vendono il mercato di mattone direttamente, quel poco che si vende in giro per il mondo, e lo fanno loro, non lo fa nessun altro. Quando ci fu l'11 settembre di 2000 che buttarono giù le Torri Gemelle, tutte le fabbriche fiorentine avevano problemi di esportazione, a noi la crisi dell'11 settembre non ce ne siamo nemmeno accorti, perché si sono inventati le peggio cose per superare questo, però ci siamo passati sopra, ma perché erano personaggi, discutibili o meno, erano dei fascisti di merda, però erano imprenditori, gente era venuta dalla fabbrichetta, si era creato tutto, ora non ne voglio parlare, prendere per uno ne parla bene, che è gente io odiavo, però sapevano che facevano. Qui ci siamo ritrovati della gente che era lì con degli stipendi più che lauti, che non sapevano di che parlavano. Cioè, quando lui delle volte ci dà delle problematiche relative alla produzione, che il vetro è un materiale vivo, risente di un sacco di... Questi ti guardano con una faccia, ma davvero? Accidenti! Cazzo, ma siete il padrone della fabbrica, sono mia io! E questo è ovvio che ti porta tutti in una certa direzione. È stata un'eutanasia consapevole della service. Lo sapevano se andava incontro a quello. C'è cazzi. No, io mi faccio notare sapeva... che loro con 60 milioni si sono comprati. Lo so, che non lo so. Ci ho passato 30 anni in quel posto maledetto. Con 60 milioni lo sono comprate noi, la Repubblica Ceca, la Cina, il Brasile, e poi che altro? Tutto il gruppo, ma poi c'è di storia di lavoro, 80 anni di storia di lavoro, tutto il gruppo hanno come, mica solo noi. Sì, se era per noi 60 milioni era stra pagato, hanno preso tutto il gruppo della serie, tutto il gruppo, e lì la cosa che... E quindi ci dice, sull'area allora? Sull'area cosa... A proposito, una cosa, all'entrata lì sulla destra, sì. Che c'è? Un coso di carni? Sì, quello è stato. Quello già c'era già detto, si può immaginare. No, è stato affittato da noi il locale. Ecco. Quelli sono locali sempre che fanno parte della serie, perché quel parcheggio lì che sembra libero, sì. In definitiva è della, cioè, è della proprietà serve, certo. Quel nel locale lì che c'era prima il formaggiaio, ogni c'è ancora, è il macellaio, cioè, anche la polvere si respira lì sotto, tutta è la serve. Quella è tutta roba serve affittata. Ma pensa te, hanno comprato un filtro da 900.000 euro. Usato due mesi. Cioè, recentissimo. Prima, per buttarti fumo negli occhi, ha detto no, non si può, possono chiudere, hanno speso 900.000 è l'unico filtro per la polvere, c'ha più polvere fuori che dentro, che l'hanno no, a due mesi, ma aspetta ragazzi, vai, si chiude baracca e burattina, arrivederci, grazie. 900.000 euro hanno speso, no, forse anche 1.100.000, insomma, lo so, sono soldi però, cioè come fai a pensare, il buco gli è rimasto che l'ha fatto questo filtro qui. Ma no, ma guarda, abbiamo pagato le, come si chiamano, le collaborazioni, come si chiamano, collaborazioni, consulenze, esatto, scusami, più assurde, cioè proprio 250.000 euro date a ogni consulente, così, in un momento in cui s'aveva dei problemi di liquidità allucinanti, io ho ancora a casa una mail che non potevo mai utilizzare, in cui i boss richiama all'ordine i dirigenti perché stiamo sforando il tetto dei 4 milioni annui per biglietti aerei. Per biglietti aerei, per andare in giro di qua e di là, uno e va a Israele per chiudere una commessa, ci sta una settimana. 4 milioni di euro. A settimana ci sta due giorni. Si calcola che ci avevano aziende. No, gente in giro per tutto il mondo. Però per mettere insieme 4 milioni di biglietti aerei, insomma, cazzo. Dirigenti che andavano cioè, in giro. Comprati l'aereo, tu spendi meno, forse, probabilmente, certo. No, non lo so. Sono 4.000 voli a 1.000 euro l'uno. Fatto questa convenzioni particolari, presumo. Fa conto che comunque quando si è aperto la Cina, siamo andati dai tecnici là, gente che siamo stati anche 2-3 mesi là, quindi biglietti aerei, eravamo più di... poi tecnici, sì, ma lì le cose andavano bene ancora, quando le cose vanno bene si deve tirare la cinghia, tecnicamente la si dovrebbe tirare tutti, visto ci hanno fatto due palle così con la grande famiglia, siamo una grande famiglia, poi alla fine noi siamo figli maledetti perché ci hanno dato un calcio nella schiena, arrivederci e grazie. Però che chi detto, sia non ce lo dico, no, perché noi siamo andati a vedere su Google Maps, sì, quella era la sede di Arata della Triathlon, erano in mezzo a un campo in Belgio, erano in mezzo a un campo coltivato in Belgio, boh, io non so quando resi, sono andato, no, sei andato a Rare, che cazzo t'ha fatto? Ma scusate, ma è una finanziaria costituita apposta per voi oppure c'è anche, no, perché sono successe? No, c'ha una sua storia alle spalle ben determinata, però come dice Gaetano, un'azienda che rileva le aziende in difficoltà, spacchetta i mercati, spacchetta gli stabilimenti e rivende. Però iniziò la Germania Est probabilmente. Ma non ne ho idea onestamente da come si è iniziato. So che quando si è approcciata questa finanziaria, quelle voci ci arrivavano, erano voci mortifere, tutte, guardate questi fanno questo, questo e questo, cioè l'idea dei 60 milioni non mi scandalizza a me, perché loro è lì che volevano arrivare, perché probabilmente c'ha ragione te, vendendo a 60 milioni dietro ne ricaveranno Dio solo sa quanti, o che genere di favori a cui danno incontro, o i soldi che faranno quando faranno le case lì, ragazzi, perché immaginati cosa può essere la valutazione, ma anche solo con il cambiamento di destinazione d'uso d'aria da residenziale a, sai quanto vale il terreno, se poi in più tadulire a metterci sopra per costruire, è vero che non è forse il momento migliore, io sto comprando casa ora, ho comprato casa ora, come comprare se tua sordi è un buon momento, ma per vendere e costruire ora come ora non è il momento migliore, però la finanziaria può permettersi di tenere lì in decantazione la cosa, intanto ottengo la variazione dell'utilizzo d'aria, esatto, poi quando mi rendo conto che il mercato delle case riprende, ci scaraventa una quantità di villette a schiera, ci fa un centro commerciale, ci fa che ci devo fare, e i soldi ti piovano addosso a quella maniera. Questa analisi su cui stanno lavorando parecchio intorno a Castello, anche perché sei sotto le Ville Medice, voglio dire, questo è un'area appetibile. Sì, Ville Medice, il nuovo aeroporto. Ci siamo prostituiti per accattare gente che credesse nel progetto della Service, ma non sto scherzando. E abbiamo ottenuto tutte porte chiuse, c'è poco da fare. Con il sedo che poi che vuol fare? È illegale quello che farei io. Tu dici se avessi... No, prenderei 30-40 anni di galera. Perché mi si garberebbe, a me sarebbe garbato chiudermi nella stanza la prima volta che ci hanno detto che vendevano, e ci hanno detto che ci vendevano e non ci avrebbero rivenduto a chi produceva mattoni, perché loro erano degli imprenditori, padri di famiglia. Ma come mai detto 5 minuti fa che tu mi vuoi chiudere e non mi vuoi rivendere perché tu sei un buon padre di famiglia? Già non sa che fa, si è avuto a che fa con questa gente qui. Ma come si è comportata la gente di quartiere con noi? Nonostante io lo so che la Seves è un disagio in un quartiere lì, perché fra il rumore, il casino, lei è un... Ma vabbè, la Fabia ci... cioè, lei va dentro quel quartiere. Sì, lo so, però io ti dico, gli abitanti stessi di quartiere, quelli delle zone limitrofe lì, e ci hanno sempre dato il loro appoggio, onestamente, perché sì, oramai era radiata la famosa. Esatto. Da quel punto di vista io non so, altrettanto, non so nemmeno da che parte rifarmi a lamentarmi, ti devo dire la verità. Per questo prima c'era un discorso nostro rispetto all'area. Il quartiere è uno dei pochi quartieri di Firenze che è rimasto, diciamo, una socialità, un tiro eccezionale, però diciamo decente, diciamo così, nel senso si vede anche lui andare a dare volantini, tu può parlare con la gente, sì. Una situazione sembra un paese nella città, esatto. io abito al sole, esatto. Per questo c'era il nostro discorso, poi c'è qualche negoziante in zona, gli non lasciamo alla speculazione veramente ai masi con noi, ci tappava le barre lì fuori, le rivola, questi alla fine c'è anche le scatole, però il discorso è questo. Cioè, se questi se bar, aspettano bar, che ci sia una riconversione, a fare, una destinazione, a fare colazione la mattina alle 5, poi, a questi soggetti. Sì, poi se cambia, vabbè, Matteo ci ha promesso quando momento in cui gli dà andiamo lì. In base alle promesse dovrebbe essere circa 3-4 mesi sarà laureare. Anche di più. Anche a così ne hai più, siccome. Quindi, poi come vi avete detto voi stessi, cioè, conta o non conta, capito? Indipendentemente dal giudizio sul soggetto che è appunto. Cioè, un nano potere per me in Italia nei confronti di questi. Colossi finanziari, la finanziaria, l'holding, cioè, non so se avete, cioè, loro ora noi si sta sperimentando su qui, ma le altre su 60 aree, fra cui molte aree che erano lavorative, in cui c'era sì, produttive. Questo ha preso Nardella, nel senso come rappresentante, sì. Invest in Tuscany, c'è, cioè, questo pacchetto, è andato alla mostra del mercato a Mola di Baviera, Mola di Mercato Immobiliare, che è la più grossa europea, e ha propagandato ognuna di queste aree, iscritte all'interno di un discorso complessivo di Firenze, città dell'autore, bla bla bla, e la abbellite di tante cose, tra l'altro non ci sono, tipo quest'area lì che le, tipo quest'area lì che le ai margini della collina, vicino alle Ville Medice, il patrimonio UNESCO e così via, quindi costruisci un albergo è una bella cosa, cioè, può far benissimo anche lì, perché se è questo che ti Linton, o chi per loro, oppure te la prende la grossa immobiliare che non gliene importa niente di vendere le case entro 2 anni, bravo, ma gliene importa vendere, può tenere da lì in decantazione tranquillamente, e te la cambiano la destinazione, ma certo, perché dopo 2 o 3 anni ti dicono oramai la produzione non può essere, non può essere più fatta. Tre balletti, arrivederci e grazie. Questo c'era il nostro discorso di mantenere proprio, diciamo, una, tra virgolette, un'attenzione ma forte sull'area, perché un venga consumato l'ennesimo disastro, e che tra l'altro questa attenzione la permetterebbe anche di mantenere l'attenzione nel suo piccolo rispetto alle vicende, diciamo, dei lavoratori, al di là del fatto della situazione drammatica dei paesi, insomma. Si conclude qui la seconda parte dell'intervista agli operai Seves, un'intervista non perfetta, diciamo, dal punto di vista della qualità del sonoro, proprio perché è stata effettuata in caratteristiche ambientali particolari. Ricordiamo Passaggio al Nord Ovest è in onda tutti i lunedì dalle 13.30 con replica da martedì al venerdì alle 13.30 su Radio Wombat, e quindi lo potete ascoltare in streaming andando sul sito wombat.noblogs.org. Sullo stesso sito potete anche scaricare il podcast, cioè le trasmissioni registrate sia di Passaggio al Nord Ovest che chiaramente di tutte le altre trasmissioni prodotte e mandate in onda da Radio Wombat. Ciao ciao!